rumori a cavalcioni sui muretti si sfiniscono di baci con un'ansia dolce il cuore rotto. Amori incatenati sulle moto vanno scoppiettando incontro al mare con il costume sotto. Amori delle ultime file che all'uscita del cinema ancora hanno i volti accesi, amori dei gelati di aprile, benedetti dal sole come panni stesi. Amori sbullonati in riva al bar sulle lambrette che aspettano un'estate nuova e azzurra e un'altra storia. Amori rifugiati in fondo a un tram di gente che ritorna, occhi impigliati, si imparano a memoria. Amori di domeniche al centro, angeli e santi che piombano giù da chiese di carbone. Amori che l'inverno ha rinchiuso dentro, per terra si rigirano in una canzone. Amori lunghi di tramontana si accompagnano e bevono eccitati le scale in un sorso. Amori dentro sciarpe di lana tuffati nelle strade degli amori in corso. Amori di mare quando la pelle si increspa e ha paura, sono una cosa sola con le stelle e il velluto di una notte scura. Amori che sono nati quando è nato il vento che spoglia il cielo degli ultimi colori ed un intero giorno che tramonta e se ne va più lento. Oh amori eterni come l'acqua delle fontane e i giorni sono un po' più lunghi e si esce fuori a respirare gli orizzonti e le montagne più lontane. Amori sottovuoto dentro le cabine un sole che va giù insieme al gettone, parlano con le mani. Amori corsi a ripararsi al buio di portoni, si scrollano la pioggia dai capelli come i cani. Amori di vernice sui muri quando la campana fa volare i ragazzi di scuola. Amori a un ballo come canguri, cuori mischiati su una pista di stagnola. Amori sfumati nel vetro in autogonfie di musica e di sere accelerate. Amori matti che si corrono dietro e si sdraiano a asciugare le anime bagnate. Amori di neve quando l'aria impazzisce di bianco e tra le braccia quel senso d'amore che ci consuma e ci fa il cuore stanco. Amori, quanti chilometri di amori al mondo un po' smarriti in questo traffico di cuori così diversi, così uguali di una vita o di un secondo. Oh amori che sono vivi in questo stesso istante che mi confonde in altri giorni e in altri odori, adesso che non ti conosco, adesso che tu sei distante. Oh amori, mille miliardi nell'universo, mille miliardi di stelle, di dolori, adesso che ancora